Rientriamo in studio e abbiamo qua con noi Marco Giovenale. Buonasera. Grazie dell'ospitalità, buonasera. Allora, Marco Giovenale è poeta, ma non solo. Presentiamo quest'oggi Prima dell'oggetto e contro le frasi, l'ultima sua produzione uscita per The Click Edizioni, e anche per parlare poi di una rivista che lui ha curato, un numero di una rivista storica, direi, che lui ha curato, La Scuola delle Cose, il numero 19, che ha per titolo scritture di ricerca. Allora, Marco Giovenale, il sottotitolo del suo libro recita, allora, Prima dell'oggetto è contro le frasi, e adesso cercheremo di capire che cosa si cela dietro questo criptico, leggermente criptico titolo, ma così per aiutare gli ascoltatori, probabilmente anche i lettori, lei ha aggiunto come sottotitolo aggregatore, installazioni, pieghe LED, strumenti slavi, Roma, narresidui. Questo narresidui è un neologismo meraviglioso. Allora, quindi una tassonomia che serve, credo, mi sembra di intuire, un po' da bussola per orientarsi in questo testo. Perché di queste frasi? Allora, intanto sicuramente il titolo e il sottotitolo è come se circondassero l'oggetto, cioè il ciò di cui si parla. Quindi abbiamo questo oggetto che in realtà viene eluso da un prima e combattuto attraverso delle frasi che a loro volta vengono in qualche maniera disturbate, ed è un po' il disturbo quello che è la base della poetica, se vogliamo dire così, che diciamo che incardina il testo in tutta la serie di testi che poi nel tempo ho pubblicato. Il sottotitolo dice aggregatori, installazioni, pieghe LED, strumenti slavi, Roma e narresidui, e racconta un po' quindi tutta quella strana mescolanza di materiali, quindi un po' alla vecchia accezione latina di satira, che mette in campo tutta una serie di residui narrativi di altri libri, materiali che sono stati recuperati, che vanno in un arco di tempo che poi un'altra pagina dichiara dal 2004 al 2024, però anche lì con un sottotitolo, ma anche prima e dopo, per cui ci sono anche delle pagine degli anni 90 che si sono infilate proditoriamente. Sì, anche perché appunto l'idea è sempre quella di alludere per mantenere viva l'attenzione, per non far acchiappare mai con certezza il senso delle parole. Allora, sì, allusione mi pare una parola utile da usare come grimaldello poi per avvicinarsi alla sua poesia, nel senso che poesia, poi tra le altre cose lei cita, che lei dice se c'è un libro che si è stufato della poesia, sia appunto del narrare usuale che va in senso opposto, è questo, si muove verso il senza verso. Allora, questo rapporto con la negazione della poesia, o quantomeno con la negazione della visione tradizionale della poesia, è qualcosa che si ritrova anche nei suoi libri precedenti, non ultimo Oggettistica, che appunto ho qua per le mani, è uscito sempre anche questo per Tic Edizioni. Ma in questo gioco a negare il verso, no? Questa è una curiosità tecnica, perché poi le andate a capo lei le mette, no? Le andate a capo lei le mette, e poi delle volte sembra che ci siano delle andate a capo per spezzare la parola, e viste così, sulla base di quello che lei dice, a me questa andata a capo con la parola spezzata sembra una violenza inaudita. Allora, come convive? Mi sembra una situazione simile a quella del compositore che scrive qualche cosa, scrive una parte, vorrebbe che lo strumentista esegua qualche cosa di fantascientifico, non riesce, magari si vergogna anche ad ammettere allo strumentista questa sua passione intima, questa sua speranza, e si tiene poi il risultato. Questa andata a capo del verso con la parola mozzata è qualcosa che lei ha previsto, o qualcosa che lei ha subito una volta che ha visto il testo all'interno poi dell'impaginato? No, in realtà è tutto grosso modo organizzato prima, e l'impaginato bene o male, diciamo, tiene conto delle mie indicazioni. In questo libro poi in particolare ci sono anche degli elementi particolari, per esempio dei materiali testuali dello stesso libro che ritornano dopo un po' di pagine, come una sorta di epigrafi interne al testo, a narrazioni, successive. Quindi in realtà è un gioco in qualche maniera tutto quanto grosso modo calibrato. E diciamo, gli a capo, nella mia idea di prosa, valgono sostanzialmente come un altro ulteriore segno di punteggiatura. Cioè, non vogliono sottolineare al lettore un picco di senso, o qualcosa che debba in qualche maniera essere sottolineato per qualche ragione. Dunque, entriamo un po' nel merito, entriamo nella pratica. Allora, il primo testo che ci siamo messi d'accordo, ovviamente, che lei ci avrebbe presentato è Corte Nemorense. Sto Corte Nemorense, quindi siamo in una Roma che da quello che lei dice sembra che sia una Roma che lei non, cioè, la guarda un po' con distacco, un po' con fastidio a volte. Qual è il suo rapporto con questa città? Fa parte Roma proprio del sottotitolo, no? Roma, nel residuo, e poi anche un po' c'è questa idea degli strumenti slavi, no? Questo sentimento slavo, quindi in qualche maniera anche un po', come dire, scaleno malinconico delle cose, e che a cui Roma, secondo me, si presta eccezionalmente se ne un po' mette da parte l'aspetto invece mediterraneo solare, che invece normalmente, insomma, no, fa il nutrimento del turista medio. Senta, io le proporrei appunto di cominciare a sentire di che cosa stiamo parlando in buona sostanza con Benissimo. questo Corte Nemorense. Nel cortile vento opposto è esattamente quale cosa? È il principio del mese dopo, luglio. Al principio la porta, petrolio legno, sa cigolare, fa semplice, si apre per fare entrare festa di due occhi, il lutto di una coda di parenti, un dato numero di buste brune di carta che scricchiolano, un'albicocca oppure solo una sua parte marcia lanciata dal cieco al primo piano. Lo spessore delle lenti. Un altro ancora che altera scale di clarino sotto tetti, oltre la svolta, lo strombo dove due spioventi inquadrano Venere per chi sul terrazzo tende i fili che un diverso vento la settimana prima aveva strappato verso l'alto, senza che questo annunci variazioni da allora. Sul sangue buttato radendosi, il prete passa, ripassa la picca di allume, uscendo da una ringhiera rossa a ponte, il topo, già salito gronda mezzanino, guadagna altri metri, fa un tuffo tra le foglie, chissà di chi. È femmina e depone i suoi 5-10 sacchette di fame e siero che digeriscono subito il mondo, lasciano piccoli fori bruciati, strappi, escrementi, poi la gloria di una carcassa di stoffa e spugnoso dove tra l'erba alta, lo spigo giallo e i forasacchi, una stadera di sola ruggine apre le braccia croix per dondolare fune, assi, leve. Avevano cercato facendo forza lì di schiodare un motore. Nel resto del prato dietro, resti di spazio cascano, i resti di tempo, qualcosa di quanto detto invecchia. E viene calciato giù dai gradini dai nuovi padroni che una, con i capelli rossi, osserva senza ridere, piegando però di lato la testa come se torcere le cose viste fosse inclinarle verso la trappola, una punta di ferro. Marco Giovenale, che abbiamo qua in studio a presentarci il suo prima dell'oggetto uscito per The Click ultimamente. Marco Giovenale, questa Roma mi pare che ho l'impressione come se lei da poeta, un po' come un flaneur, la guarda e in un battito di ciglia la interiorizza, cioè questa sorta di far poesia come lo scattare delle fotografie attraverso le parole, perché ci sono degli scarti di senso continuamente a ogni riga e quindi c'è una narrativa che si compone, si infrange, si ricompone, si rinfrange continuamente. Non so se sto dicendo qualcosa di completamente sbagliato o se... Non so, mi dica lei, questa è l'impressione da profano, da lettore È un profano. lettore attento perché effettivamente c'è una, diciamo, natura fotografica del discorso, del linguaggio che è quasi, forse sicuramente, anzi, più smaccata rispetto ad altri libri. E in particolare ci sono un paio di posti che ricorrono continuamente. Uno di questi, almeno in due o tre parti del libro, è la chiesa di Sant'Agnese in Agone a Piazza Navona, disarticolata in vario modo. Quello che a me interessa fare nella testualità che porto avanti non soltanto con questo libro ma anche con altri è di in qualche maniera fare un po' quello che faceva Carmelo Bene col suo testo, con i suoi testi, con la scrittura di scena, cioè in realtà crearsi degli inciampi e di conseguenza non tanto crearli al lettore, quanto chiedere al lettore di interrogarsi con me sul testo. E questa è una sorta di, diciamo, fondamento di quella che poi magari ne parleremo dopo, insomma, da qualche tempo viene richiamata, perché in realtà l'espressione è una lunga storia, scrittura di ricerca. Ma tra le altre cose si rimanda qua a una sorta di toponomastica fantastica di Roma, tant'è che mi domandavo se per caso le è venuto in mente, oppure magari è troppo triviale come idea, ma ad esempio non so, mettere le indicazioni di Google Map senza spiegare dove poi si finisce, no? Ma così, una specie di amo, perché è chiaro che lei si riferisce a determinati luoghi, ma è altrettanto chiaro che in questi luoghi ci si entra attraverso porte simboliche, surreali, e sicuramente non attraverso le porte con le quali entriamo noi solitamente in questi luoghi. Il prossimo testo, quale può essere? Potrebbe essere un testo che in realtà non avevamo in verità programmato Bene, ecco insieme. perché è importante l'improvvisazione anche E in questa che trasmissione. però è breve, per cui non prenderò molto tempo, e che è a pagina 69, per chi dovesse avere il libro dei nostri ascoltatori, e si intitola Cedro e altro, ed è uno degli esempi degli inciampi che si possono praticare nel narrare o nel non narrare, contronarrare. L'aspetto del piccolo cedro continua senza contorni. Da capo si sta dividendo dietro la memoria della base di pietra, un riporto di età imperiale lì. Le donne molto giovani e le donne molto vecchie decidono di aspettare ancora dove non è più portico e non ancora giardino. La discesa alla corte interna è crivellata di disegni e tavolette incise, fermi di piombo e fermi per mattoni, sasso. Un canale molto denso di sangue è corso da piccoli ruscelletti minori, poi da navigli ancora di sangue, come a spiegazione e raddoppiamento. Un finale gotico. No, no, sto dicendo una stupidaggine, ma ecco, per esempio, il presupposto di questo testo, no? Quando le è venuto in mente? Dov'era? Che cosa faceva? Questo è un punto in realtà difficilmente localizzabile con Google Map, perché non fa parte tanto di una geografia rintracciabile nella realtà topografica della città, anche se è un punto reale della topografia esterna in realtà al raccordo anulare, ma che è un po' un luogo della memoria mio personale. In un posto particolare, che adesso non sto a citare, dove appunto diciamo le memorie personali si mescolano alla memoria storica di una Roma veramente archeologicamente considerata, e ci sono queste donne, molto giovani e molto vecchie, che in realtà sembrano essere una sorta di parte dell'architettura, di questa vecchiezza inscalfibile della città di Roma, da cui appunto questi rivoli di sangue che sembrano essere in realtà i fondamenti di una città che è stata, ricordiamolo, fondata appunto da un fratricidio. Sì, certo, certamente. Mi interessa a riguardo, le ho fatto questa domanda perché una curiosità che mi è venuta leggendo il suo testo, che ricordo, parliamo di Prima dell'oggetto, uscito per The Click ultimamente, parliamo con Marco Giovanale che abbiamo qua in studio a parlare della sua ultima fatica letteraria. Dicevo, una curiosità mi è venuta leggendo questi testi è la prospettiva dalla quale lei guarda a ciò che poi tramuta in parole, cioè qual è la posizione del poeta rispetto a ciò che scrive? Sta dentro a ciò che descrive, se ne tiene fuori con attenzione, è in un altro luogo e quindi descrive qualche cosa che sta soltanto nella sua memoria? Perché questo rapporto, insomma, la scrittura poetica è interessante anche per come declina il rapporto con lo spazio, con ciò di cui si parla, con quella porzione di realtà di cui si parla, Con l'oggetto. con l'oggetto, esattamente. Quindi lei dove sta in questa parola? Sta dentro, sta fuori, sta accanto, lo ricorda? Sto sempre un po', tento tendo a essere sempre un po' prima, cioè in qualche maniera è anche una delle modalità, dei modi, delle espressioni che uso per descrivere la mia idea personalissima, per carità, di scrittore di ricerca, è quella di, una, di, una, di qualcuno che fa un percorso mettendo una mattonella dietro l'altra, montandola davanti a sé, cioè che in realtà i pezzi che prende li prende da fuori, ma non sa esattamente sempre perfettamente che cosa sta facendo. Heidegger, questo un po'. Questo è un po'. Cioè, l'importante è camminare senza preoccuparsi del dove, insomma. E diciamo, quando è successa una cosa di cui insomma, tutto il mondo giustamente ha veramente grande ragione ha parlato, cioè la scomparsa di David Lynch, mi ha fatto riflettere, perché il libro era già pronto, mi ha fatto riflettere sul fatto che se noi osserviamo per esempio la cinematografia di Lynch, soprattutto i suoi ultimi tre film, ma anche Twin Peaks per certi aspetti, noi ci troviamo di fronte a una modalità di scorrimento della macchina da presa, a una scelta dei movimenti veramente di macchina dell'entrata nel campo della realtà da parte di Lynch, che è sempre in qualche maniera lineare, cioè senza quei salti che hanno le loro apoteosi nell'avanguardia cinematografica, ma sempre in qualche maniera lineare. Poi Lynch chiaramente spezza tutto montando spezzoni lontani nel tempo delle sue vicende, le vicende che narra, però quando c'è diciamo, un movimento di macchina lento che va a scoprire degli oggetti, appunto, c'è un prima che crea una sorta di picco nell'osservatore, che è come una sorta di, come dire, di climax, un climax che poi alla fine si spegne in realtà, perché poi magari noi ci avviciniamo, per esempio questo in Inland Empire, ci avviciniamo a girare un angolo, a voltare un angolo, ovviamente non sto facendo l'esempio di Twin Peaks, un episodio altro famoso, che invece lì è veramente una scena dell'orrore, ma insomma, in Inland Empire non sono poche le scene in cui l'osservatore lentamente, lentissimamente, facendo crescere l'emozione del lettore, l'attesa, l'orizzonte attesa che continua a illuminarsi di qualcosa che non sappiamo cos'è, e poi voltato l'angolo ci troviamo di fronte a un comodino sopra un tavolo. Quindi, scusate, una lampada sul comodino, oppure anche un comodino sopra un tavolo volendo. Cioè qualcosa di assolutamente banale. In questo volendo, e qui chiudo insomma questa mia tirata, se vogliamo, un po' troppo di poetica, in questo volendo anche sconfessare un po' quella poetica delle epifanie intese come momenti eccezionali della realtà, che invece ha innervato un po' e forse anche un po' stancamente tutto il Novecento. Sì, certo, poi questa l'idea dell'epifania, come dire, sembra un po' spenta nella quotidianità, poi piaccia o no, però insomma di epifanie e di obiettivi visibili, da raggiungere progressivamente, con tutto ciò che significa questo termine, insomma, sono ahimè cambiati i tempi. Un ultimo testo, prima di parlare invece della rivista, che cosa ci propone? In fondo è un dittico, perché sono gli ultimi due, ma sono pochissime righe ciascuno, però li leggo invertiti, quindi leggo l'ultimo testo del libro per primo e il penultimo per secondo. Nastro isolante. Ero impegnato in una biografia, la luce andava e veniva. Facciamo bene anche senza fotografia. Sono questi piccoli rettangoli di isolamento, di isolante. Mi sento nel mio, una piegatura nella frase. Pareti di massima, sbozzate ma difensive. Chi spolvera via la grafite non ha capito. Fare un volo. Gonfiano l'areostato per farlo volare. Fanno volare il loro fiato. Secondo loro tutti dovrebbero alzare il capo, meravigliati a vedere questa cosa. Vedi, quello lì che vola lì è il mio fiato. Bellissimo, nastro isolante e fare il volo, fare un volo, Marco Giovenale, prima dell'oggetto che stiamo presentando, un libro uscito per The Click da poco tempo, ma proprio in una battuta, poi parliamo della rivista di cui vogliamo parlare, ma nastro isolante in questo caso rispetto al posizionamento del poeta, qui il poeta è dentro, non è fuori, no? Mentre viceversa il fare un volo. Questi piccoli rettangoli di isolamento, di isolamento. Esatto. Oh, Quella che noi abbiamo sentito adesso è la pratica, ma dietro questa pratica c'è una teoria che gli interessati alla poesia contemporanea possono approfondire, perché parliamo adesso di una rivista, di un numero della rivista che lei ha curato, una rivista anche importante, storica, La Scuola delle Cose, il numero 19 ha per titolo Scrittura di ricerca. E qua appunto parlavamo prima sulla differenza fra complessità, scrittura di ricerca, sull'attualità, anche sul senso che può avere oggi sia la parola complessità sia la parola scrittura di ricerca. Com'è organizzata il numero di questa rivista? Allora, questa rivista noi la dobbiamo innanzitutto alla grande generosità di Gino Di Maggio e alla Fondazione Mudima, o Mudima, che diciamo, è alla base di questa associazione che Gino Di Maggio ha creato in Sicilia, che si chiama Liceum, che pubblica appunto questa rivista. Ogni numero è monografico, questo dedicato alle scuole delle cose, in particolare è stato voluto molto da Luigi Ballerini e dall'Associazione di Poesia di Giovanni Bonoldi. E cerca in qualche modo di dare un quadro, e forse per la prima volta, direi, dare un quadro, diciamo, relativamente organico, per quanto sintetico, perché la rivista è enorme, è un foglio a uno che si ripiega e ripiega, ma per quanto sia grande, i materiali che si sarebbero potuti inserire sarebbero potuti essere anche molto, molto di più, molti di più. E i temi affrontati vanno a costituire una sorta di, diciamo, di quadro, di disegno di ciò che è successo negli ultimi 20-25 anni di sperimentazione letteraria. Allora, ci sono interventi di Gianluca Picconi, Massimiliano Manganelli, Luigi Magno, Chiara Portesini, Renata Morresi, Chiara Serani, Luigi Ballerini stesso e Daniele Poletti. Io ne ho curato soltanto, diciamo così, l'organizzazione, sono stato un po' tra virgolette, e con una D particolarmente minuscola, direttore d'orchestra, però per il resto hanno fatto tutti loro un lavoro eccezionale. E concentrandosi su temi che adesso vado a elencare semplicemente. Prima di questo, vorrei parlare dei temi. Dove si può trovare questa rivista? Allora, questa rivista si può trovare in alcune librerie. Allora, innanzitutto a Milano, alla Fondazione Mudima stessa. Certo. Poi c'è una serie di librerie, per esempio a Bologna c'è Modo Info Shop, a Roma c'è la libreria TIC, a Napoli c'è la libreria La Luce, che sta al Vomero, e sto dimenticando sicuramente qualcosa e verrò severamente bacchettato. Comunque, il titolo della rivista è La Scuola delle Cose, appunto, Esatto. ed è un'occasione interessante per entrare nella poesia contemporanea, nelle sue tematiche, attraverso un approccio in questo caso invece più teorico, no, non tanto critico, mi pare proprio interno di tecnica, no? E quindi molto utile per poi avvicinarsi con occhi e orecchie nuove al testo. Allora, dicevamo, gli articoli, i testi, i saggi di questo numero. Sì, che affrontano appunto giustamente dal punto di vista teorico e storico un po' un percorso che ormai ha qualche decennio di storia. Sono uno dedicato esplicitamente alla scrittura di ricerca, alla prosa in prosa, alla letteralità, cosa significa letteralismo, per esempio, nella tradizione francese. Sulle procedure di cui la scrittura di ricerca si dota per fare appunto il proprio lavoro. Poi c'è una sequenza di cinque nomi più uno e 10 titoli di scritture di ricerca francesi che dagli anni 90 a oggi praticamente hanno anche loro informato fortemente molta parte della tradizione, ormai possiamo chiamarla tradizione della ricerca letteraria italiana. Uno studio di Chiara Portesine sull'eredità di Corrado Costa al presente, quindi gli autori che appunto più in qualche maniera ne hanno ripreso, non specchiato, ma semplicemente ripreso il lavoro. Poi un articolo sulla language poetry, un altro sulle intermedialità, un altro ancora che è quello di Luigi Ballerini, che chiama in causa Leopardi e la vitalità, che in fondo in qualche maniera informa la scrittura contemporanea, e l'ultimo, appunto, sulle scritture complesse, che è di Daniele Poletti, che oltre ad essere un editore, un critico, un teorico, è un autore egli stesso, e appunto della complessità. Noi conosciamo l'idea della cultura della complessità, ma forse di scrittura della complessità si potrà leggere e capire meglio leggendo questo, che è forse il più lungo e denso articolo della rivista. Tra le altre cose, per ritornare ad una poetica che le è cara, quella dell'oggetto, degli oggetti, anche questo, l'oggetto rivista in questo caso è curioso perché appunto, Per sfogliarlo occorre fare una certa attenzione, bisogna impegnarsi perché, appunto, come lei ha accennato, è un foglio che si ripiega continuamente su se stesso. E, però, appunto, anche questo svelare l'oggetto è un'operazione che, per quanto manuale, in realtà ben dispone poi alla fruizione dell'oggetto stesso. Benissimo, Marco Giovenale, io la ringrazio molto. Ricordo, Marco Giovenale, prima dell'oggetto e contro le frasi, con il sottotitolo Aggregatore, installazioni, pieghe LED, strumenti slavi, Roma, Narresidui. Narresidui, torno a dire, mi sembra un neologismo bellissimo, uscito da poco per The Click Edizioni. Questo il suo testo, e invece poi la rivista La Scuola delle Cose, il numero 19, interamente dedicato alla scrittura di ricerca, uscito nell'aprile di quest'anno per Liceo e la casa editrice milanese, mi pare, no? Sì, Liceum, l'associazione Sì. siciliana, ma poi Mudima Mudima è sì. milanese. Infatti è anche Mudima che si può contattare volendo Ecco, per ricevere perfetto. la rivista. Grazie, grazie Grazie, grazie mille. a voi. Arrivederci.